4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buon sabato sera a tutti gli amici dei motori, in particolar modo questa volta ai motociclisti, ed è facile intuire il perché. Doverosamente l'apertura di oggi è dedicata a Valentino Rossi. Dopo il grande gesto sportivo, tecnico, atletico, vorrei dire soprattutto umano, di domenica scorsa, per chi se lo fosse perso corra subito a vederselo sul web o a leggere quanto c'è, perché nell'ultima curva del Gran Premio di Catalunya, parliamo di MotoGP, il nostro italiano Valentino Rossi ha superato il padrone di casa Jorge Lorenzo, lasciando la bocca asciutta e vincendo per pochissimi centimetri uno dei gran premi cruciali per la classifica. Non è tanto questo, perché Valentino Rossi ci ha abituato a queste cose, però questa volta, nonostante l'abitudine, ha fatto un sorpasso che davvero ha lasciato tutti gli sportivi, vorrei nominare così tutti gli appassionati davvero degli sport, a bocca aperta, perché l'ha fatto lì dove nessun commentatore, nessun ex pilota avrebbe mai immaginato che si potesse mettere la moto, rimanendo in piedi all'ultima curva, nonostante avesse superato in maniera veramente incredibile Jorge Lorenzo, e andando a prendersi la vittoria, devo dire poi meritata, dopo un gran premio meraviglioso. Tutto questo lo facciamo in apertura di trasmissione con un www.radio24.it come riferimento e la nostra email 4ruote@radio24.it. Poi ci occuperemo naturalmente della prova della settimana, che si concentrerà sulla Renault Megane e tanta tecnologia. Prima però, allora, con due ospiti, Paola Barogno di Due Ruote, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Insieme a Paola c'è anche Andrea Toigo, Enterprise Technology Specialist di Intel per l'Italia e la Svizzera. Allora, dottor Toigo, buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Come gli ascoltatori, le chiedo di sentire quello che abbiamo con Paola più o meno scalettato, che vogliamo dire di quel gesto che c'è stato, soprattutto del suo significato sulla classifica mondiale, ma sullo sport a due ruote in genere, perché il ponte poi sarà con lei, che si occupa di tecnologia insieme a Ducati, cercare di capire quanto conti la tecnologia sulle due ruote più avanzate di oggi del panorama mondiale. Ma torniamo a quegli ultimi due o tre giri. Paola Barogno, intanto un tuo commento da sportiva, da appassionata, ma anche da caporedattore di Due Ruote. Ma guarda, è stato difficile in quel momento scindere tutte le figure, perché è stato veramente, sono stati tre giri bellissimi, meravigliosi, che hanno segnato un momento di grande sport e hanno rilanciato il moto mondiale, perché con quel sorpasso fatto nell'ultima curva Valentino Rossi ha battuto Lorenzo e ha riportato la classifica dopo sei gare in assoluta parità. Di pratica non dico che si ricomincia da capo, ma il mondiale è rilanciato alla grande. Se pensi che solo con due GP fa ci si lamentava tutti della monotonia di questo sport, ancora una volta il valore aggiunto di Valentino Rossi è stato fortissimo. Lui ha la capacità di rendere scintillante tutte le azioni che fa, secondo me, nel suo sport. E tra l'altro in un punto fuori da ogni sospetto, pensate, per chi non l'avesse seguito, ma immagino che su YouTube quei tre giri ci siano, e me lo auguro, anzi andrò io stesso a controllare. No, ti posso già dire che ci sono. Mi fa piacere, sei sempre sul pezzo, perché vale la pena, ecco, proprio chi è amante degli sport di motori, andarlo a vedere, perché lì più ancora dei motori, più ancora dei mezzi, c'era veramente l'uomo, il coraggio, il cuore di due ragazzi, tra l'altro uno giovanissimo che era primo ormai da tanti giri. Negli ultimi due giri, insomma, si erano sportellati senza mai toccarsi, senza scorrettezze, continuavano a superarsi, e quando lo stesso commentatore Reggiani sulla TV in chiaro aveva dato per spacciato ormai Valentino Rossi, lui è riuscito a mettere lo zampino davanti nell'ultima curva. Allora cerchiamo ora, al di là dell'aspetto di cronaca, di approfondire il significato, da una parte in classifica, di quel gesto, dall'altra dell'abbraccio che c'è stato sul podio. Vorrei chiedere a te, Paola, come l'hai visto, fra Jorge Lorenzo, che aveva una faccia nerissima, e un Valentino Rossi che, se non avesse avuto le orecchie, avrebbe avuto un sorriso a 360 gradi. Ma guarda, la gara è stata bellissima, secondo me la vittoria di Valentino Rossi è stata esaltata dall'agonismo anche del suo avversario, perché comunque Lorenzo si è battuto da pari, cioè è stato bravissimo fino a quell'ultima parte, nella quale Valentino Rossi ha dato ancora un tocco che ha stabilito per questa volta, l'ennesima volta, la sua superiorità su questo avversario. Ma questa volta la gara è stata anche appassionante per la levatura di Lorenzo. L'abbraccio sul podio è un abbraccio, secondo me, se mi permette, un po' di maniera, nel senso che pur nel rispetto che hanno questi due campioni, sono due galli nel pollaio, cioè Valentino Rossi e Lorenzo, appartengono alla stessa squadra sono divisi da un muro, vero, in squadra tra di loro per tanti motivi, e pur appunto ribadisco anche nel rispetto che hanno l'uno dell'altro, però sono fortemente rivali. Giustamente Valentino ha fatto quel gesto sportivo che in quel caso secondo me è stato un po' subito da Lorenzo, sì, ma che comunque sì, c'è stato, cioè non è una rivalità come quella che c'era con Biaggi, con Biaggi per intenderci, no, insomma, no, in cui si prendevano proprio quasi a gomitate sulle scalette, no, per salire sui podi. Decisamente, questo è anche da indicare ai giovani sportivi, a tutti i ragazzi che seguono le moto. Lì siamo in pista, siamo ad altissimi livelli, i più alti del mondo sono i due insieme a Stoner, le tre persone, i tre atleti, perché tali sono, più forti di tutto il mondo su due ruote, naturalmente considerando la MotoGP come massima espressione ad oggi sulle due ruote, poi senza nulla togliere ovviamente alla Superbike. Anzi, che cosa succederà nelle teste dei due protagonisti? Ma mettiamoci dentro anche un Casey Stoner su Ducati che non stava affatto bene fisicamente, ha stretto i denti, è arrivato terzo. Sì, ma infatti diciamo che il gesto di Valentino Rossi, quel sorpasso, ha messo in ombra un po' tutto, però guarda che la gara di Stoner è stata validissima, ha tenuto dietro Dovizioso con grande grinta, e credo che disputare un gran premio in quelle condizioni fisiche sia veramente una prova difficilissima. Insomma, Stoner è stato messo in ombra inevitabilmente, ma tornerà, non è, e comunque è anche lui a 106 punti come gli altri due. Certo, adesso c'è la gara di Assen fra poco, e poi tutti aspettano quella di Laguna Seca ai primi di luglio. Che ha degli echi rispetto a quanto è successo con Casey Stoner l'anno scorso, incredibile. Quello che ha fatto Valentino, quella Laguna Seca, che ha ribadito questa volta, è una maniera di vincere che non è solo battere l'avversario, ma una maniera assolutamente unica, che è lui di sferrare il colpo finale, che è effettivamente è unica, è scintillante. Secondo me lui è un campione, per quanto vince sicuramente, perché per esempio in questo caso la statistica vuole, il fatto vuole che abbia battuto Lorenzo in Spagna, in Catalunya, Lorenzo partiva in pole, eccetera, quindi ci sono tutti i dati, ma come certo, lui l'ha fatto, certo, e come l'altra volta aveva battuto Stoner, va bene. Lo rende davvero unico. Sì. Senti, ultima domanda, ti chiedo una risposta abbastanza secca: se in Formula 1 tutti sono più o meno concordi nel suddividere le percentuali di tecnologia / auto e uomo dall'altra in 80-20, quindi fatta 100 il risultato della potenzialità del mezzo più uomo, molti dicono ormai il mezzo conta con tutta la tecnologia che ha a bordo 70-80, chi dice addirittura 90, e l'uomo 10-20%. Secondo te in MotoGP quanto vale? Secondo me no, secondo me 60-40, nel senso che per esempio la Ducati con Stoner fa vedere che comunque il valore aggiunto che ha Stoner su quella moto ipertecnologica fa ancora stabilire che il valore del pilota è alto. Molto bene, siamo sicuramente d'accordo su questo. Paola, grazie di cuore, l'appuntamento con te su motoonline.com o su Due Ruote in Edicola. Presto e buona serata. Grazie a voi e saluto a tutti. Adesso Andrea Toigo, dicevamo, Enterprise Technology Specialist di Intel Italia e Svizzera. Voi lavorate a stretto contatto con la Ducati. Andrea, abbiamo toccato adesso il tema della tecnologia. Ci racconta che cosa fate esattamente per e con Ducati? Per Ducati facciamo diverse cose, ci sono collaborazioni dal punto di vista tecnologico, quindi tutta la fase di progettazione delle moto Ducati viene ovviamente fatta con il grande know-how che hanno i tecnici e gli ingegneri, ma buona parte dell'elaborazione viene poi fatta al computer, quindi sicuramente fornire le tecnologie che permettono di progettare la moto in tempi rapidi, riducendo al fine anche quelli che sono i costi di realizzazione, di progettazione della moto, è uno degli aspetti. Poi ovviamente la possibilità di fare simulazioni sempre al computer rende molto più veloce la fase di sviluppo e quindi permette di essere più pronti e reattivi. Ecco, io so che svelare qualche cosa che non si può è inutile anche chiederglielo perché è vietatissimo, però fa capire ai nostri ascoltatori non tanto abituati a questi segreti del retroscena che cosa significhi sviluppare via computer, via simulazione, lo sviluppo di una moto. Che cosa significa? Ma in generale uno degli aspetti molto difficili sia nell'ambito del motociclismo che comunque delle automobili è quella che è la fluidodinamica, ossia vedere come la moto, il mezzo si comporta con i vari flussi d'aria, quindi ad alta velocità, in curva, quando è dietro ad un'altra moto, per cui tutto questo tipo di esperimenti vengono fatti in due modi. Uno potrebbe essere la galleria del vento, cosa che è molto sviluppata in Formula 1, e oppure tramite simulazione al computer. Chiaramente la simulazione al computer è decisamente più veloce, più economica di quanto non sia allestire una galleria del vento e fare tutte quante le prove. Ovviamente avere questo tipo di informazioni poi permette di capire dove si può superare, dove si può spingere un po' di più con la moto rispetto all'avversario, probabilmente. Decisamente. Voi fate questa fornitura importante, in questo caso solo a Ducati? No, allora, chiaramente noi produciamo una serie di componenti che vengono utilizzati nei computer e nei server di molti produttori, per cui diciamo, noi con Ducati abbiamo in particolare un altro tipo di attività, che è quello anche di in collaborazione con Toshiba fornire anche una serie di strumenti che vengono poi utilizzati dagli ingegneri di pista di Ducati durante i Gran Premi, quindi strumenti per l'analisi dei dati che scaricano dalle moto e strumenti anche per cercare di ottimizzare quelli che sono tutti i parametri fondamentali della moto quando devono andare in pista, le cosiddette mappature e quant'altro. Decisamente. Volevo chiederle questo: secondo lei a quanta tecnologia si arriverà con le moto, tenendo se riesce presente quanto accade per esempio con le auto, dove la tecnologia ha invaso decisamente e incontrovertibilmente, credo, tutto il settore? Beh, diciamo che chiaramente il numero di componenti che c'è da tenere sotto controllo in una moto è leggermente inferiore a quello di una macchina, quindi sicuramente ce ne sarà un po' meno. Però direi che siamo più o meno sullo stesso livello, sullo stesso parametro, perché si possono controllare le sospensioni, il chattering, l'antipattinamento, i freni. Chiaramente in MotoGP per esempio non vengono utilizzati sistemi tipo ABS, ma in moto da strada ormai è da diverso tempo che viene utilizzato anche questo sistema di controllo. Per cui il livello di utilizzo della tecnologia è assolutamente paragonabile a quello che si può avere in un'automobile. Molto bene, io vorrei ringraziare davvero Andrea Toigo per la sua presenza, Enterprise Technology Specialist di Intel. A presto e soprattutto buon lavoro. Grazie mille e buonasera a tutti gli ascoltatori. Rimaniamo in campo tecnologico, anche se cambiamo un po' discorso, perché adesso è nostro ospite Pioneer. Ci sono delle novità che riguardano le quattro ruote, quindi ne aggiungiamo due rispetto ai discorsi con cui abbiamo doverosamente, per cronaca, aperto la nostra trasmissione questa settimana dopo il bel gesto sportivo di Valentino Rossi domenica scorsa. Acquisiamo e rientriamo nell'abitacolo, la tecnologia ci aiuta sempre di più anche a vivere bene, a sopportare magari qualche coda, addirittura a staccare degli accessori dall'auto e portarceli in campeggio, al ristorante o su una panchina dove magari ci fermiamo e sostiamo semplicemente per goderci il paesaggio o rinfrescarci. Roberto Moneda, General Manager della Mobile Business Group Pioneer, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, grazie mille per avermi invitato. Grazie a lei per aver risposto. Io l'ho invitata perché ci sono tre novità che voi considerate importanti. Volevo che lei le raccontasse ai nostri ascoltatori, così saranno loro a giudicare la loro importanza. Parliamo di navigatori, quali e quanti? Dunque, la gamma nuova che presentiamo proprio in questi giorni durante un roadshow che sta correndo in giro per l'Italia con presentazioni ai nostri esperti, ai dealer, a tutto il settore, riguarda delle macchine di navigazione dedicate alla navigazione in auto di tipo fisso, anche perché Pioneer ha una tradizione lunghissima nella navigazione fissa, che è diversa da quella portatile, per intenderci, facendo un minimo di pubblicità tipo TomTom, per intenderci. E i nostri prodotti sono invece dei navigatori che vanno installati in maniera fissa sulla plancia della vettura, per lo più a doppio DIN, cioè che occupa il doppio spazio rispetto alla classica autoradio. E sono delle macchine complete, sono dei sistemi audio-video, dei sistemi di navigazione, dei sistemi chiaramente di riproduzione di tutte le tecnologie nuove tipo iPod, sì, iPhone e tutte queste cose. Quando dice video, che cosa intende esattamente? Dunque, riproduzione di filmati, di film, di qualsiasi tipo di supporto, diciamo, digitale che può riprodurre, quindi filmati anche personali, riproduzione e riprese con le videocamere, qualsiasi cosa, e naturalmente i film classici che troviamo in commercio sul DVD. Molto bene, in questo senso. C'è anche chi si è occupato di far prendere il segnale televisivo, è una scelta che voi farete, una strategia che avrete o no? Sì, sì. Sicuramente, tutti i nostri navigatori sono dotati di ingresso AUX per la parte TV, addirittura noi commercializziamo in collaborazione con un'azienda tra l'altro italiana un sintonizzatore digitale terrestre predisposto con una cam per vedere anche la televisione via diciamo digitale, tipo Mediaset per intenderci, quindi sicuramente un sistema di intrattenimento audio video completo. Decisamente. Senta, viste le caratteristiche si capisce anche perché i prezzi sono così alti, li dice lei o li leggo io? No, glieli posso dire. Variano da un entry level a 799 euro, che è un prodotto proprio di base per noi come Pioneer, fino a un massimo di un 1700 euro, circa 1699. In mezzo ci sono questi navigatori con performance e caratteristiche molto molto diverse e costano molto di più rispetto a di portatili, sì, perché sì, offrono una valanga di funzioni in più. Questa è un po' la motivazione, un po' come dire vuoi di più e giustamente lo paghi. Lo paghi, è come le vetture in relazione agli optional che uno può trovare all'interno. Chiaro, chiaro. Dove si troveranno questi navigatori? So che ci sono degli accordi nuovi. Sì, noi abbiamo una rete di distributori classici in giro per l'Italia, che sono poi gli installatori di prodotti car stereo, vanno chiaramente distribuiti e sono in vendita nelle maggiori catene di elettronica, ma soprattutto stiamo facendo un lavoro molto interessante con le case auto direttamente. Proponiamo cioè i nostri navigatori, le nostre soluzioni di intrattenimento audio-video all'interno delle vetture che escono direttamente dalla concessionaria. Quindi un prodotto aftermarket con un costo da aftermarket, per intenderci un navigatore sistema completo con audio video costa 1000 euro, sì, mentre se uno lo ordina chiaramente dalla casa auto costa anche due o tre volte tanto, e però con tutte le funzioni che il consumatore si aspetta. Senta, vorrei anche affrontare un altro argomento, dottor Moneda, ed è un po' spinoso per voi che vi occupate di inserire in poco spazio sempre più funzioni. Dovete farlo tenendo d'occhio e molto anche la sicurezza. Che cosa ne dice un costruttore di tecnologia d'abitacolo della sicurezza? È fondamentale, è la priorità della nostra R&D, quindi ricerca e sviluppo. Il navigatore fisso assicura all'operatore che guida, quindi al guidatore, la totale concentrazione sulla guida, perché sono dotate queste macchine di ad esempio funzioni vocali complete, hanno un unico tasto per la gestione completa di tutte le funzioni di navigazione, cosa che invece sui portatili uno deve andare a cercarlo vicino al vetro da dove viene fissato, quindi effettivamente c'ha una praticità d'uso che si riferisce poi a una sicurezza nell'uso senza dover distrarre il guidatore per le funzioni. Un'altra cosa è la sicurezza in caso di crash, e voi lei immagini un prodotto che è solidale con la plancia, quindi in un caso di incidente. Sì, questo è importante. Mentre purtroppo un portatile il più delle volte si stacca e finisce addosso ai conducenti piuttosto che ai personaggi, quindi effettivamente può generare e creare dei problemi in casi di crash. Questo è vero, diventa una sorta di proiettile effettivamente. Sì. Diciamo che entrambi hanno pregi e difetti, dal prezzo alle funzioni, alla estetica anche, certo, e alla pericolosità. Mi dica una cosa, molti produttori di sistemi audio-video dicono che punteranno molto più volentieri e molto pesantemente nella direzione dell'audio, perché cognitivamente anche l'audio è un disturbo, però lo è meno del video, figuriamoci del tocco che distrae tutta la persona, l'occhio, l'audio e il tatto. Secondo voi ci sarà più futuro per l'audio, una voce che ci dirà che cosa fare, dove andare, c'è pericolo, storta a destra e a sinistra, oppure il video manterrà la sua funzione? E sempre più il video sarà solo intrattenimento da utilizzare per esempio per i passeggeri posteriori, e sempre più, come quest'ultima gamma di nostri prodotti, verranno dotati di funzioni vocali complete, quindi veramente già attraverso il TMC viene avvisato vocalmente un blocco di traffico per esempio, piuttosto che addirittura un evento, perché vengono collegati tramite internet a particolari siti che danno informazioni culturali o di spettacoli o di eventi locali dove ci si sta dirigendo, quindi la voce diventerà sempre più il vero interfaccia di queste macchine, sempre di più. Molto bene, grazie davvero da Pioneer a Roberto Moneda, ci ha fatto compagnia, a prestissimo. Grazie a voi e buonasera a tutti. Adesso ci occupiamo del nostro avvocato che ci insegna a tappe, ormai ci siamo abituati, il 21esimo suo intervento, l'avvocato Erika Lievore, e ci parla di una norma che abbiamo scovato nel codice della strada, di cui colpevolmente io stesso non sapevo nulla e che riguarda l'aria condizionata. Sembra che sia veramente vietato tenerla accesa con motore acceso e auto ferma. tema. Cosa ne pensa l'avvocato? È vero, esattamente così, perché all'articolo 157 del codice della strada il comma 7 bis prevede espressamente il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento del veicolo stesso. E questa norma poco conosciuta è stata introdotta proprio dalla legge 160 del 2007, che ha riguardato le disposizioni per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Per intenderci, è stata quella legge che poi ha bandito gli alcolici, per esempio, dopo le 2 di notte nei locali notturni. Senta, qual è però l'applicazione di questa norma, visto che pochi la conoscono? Sì, allora, l'uscita del decreto, che è stato poi convertito in legge appunto nel 2007, questa norma ha suscitato diverse polemiche, soprattutto dalle associazioni dei consumatori. L'applicazione della norma appariva soprattutto problematica, poiché l'accertatore dovrebbe riuscire a sorprendere il conducente all'interno dell'abitacolo con l'aria condizionata accesa. E comunque ricordiamo che la norma si applica sia nei casi di sosta nel veicolo che nei casi di fermata, che, come definito dall'articolo 157, lettera B del codice della strada, è considerata la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di comunque brevissima durata. Non si estende questa norma ai casi di arresto del veicolo dovuti al traffico o per compiere manovre. Inoltre, questa norma viene considerata comunque una norma speciale rispetto al più generale divieto di tenere il motore acceso durante la sosta, che è previsto invece dal comma 2 dello stesso articolo 157 del codice della strada. Per cui, qualora ci trovassimo con il motore acceso con lo scopo di tenere inoltre accesa l'aria condizionata, la sanzione applicata sarà quella prevista dal comma 7 bis. A questo punto non ci resta che parlare delle sanzioni di questa norma che non conoscevamo. La violazione della norma prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 200 a ben 400 euro. Grazie davvero all'avvocato Erika Lievore, che trovate attraverso la nostra email 4ruote@radio24.it. Quattro ruote e dintorni. Dunque proseguiamo la nostra trasmissione con l'ultima parte, oggi due blocchi, due parti di quattro ruote dintorni e non come di consueto tre, ma in realtà non cambia nulla nei contenuti, negli ospiti, tutte le voci che in realtà potete poi ritrovare da lunedì su www.radio24.it. Ho fatto inserire anche dal nostro webmaster una foto della Mégane Coupé, che fra pochissimo proveremo, e una di Valentino Rossi, visto che sono stati due argomenti principali di questa trasmissione. Potete trovare tutto su radio24.it nella sezione programmi. Vi ricordo anche la modalità per giungere alla nostra redazione, ma anche al nostro avvocato, ve l'ho ricordato prima, 4ruote@radio24.it. Buonasera e bentornato ad Alessandro Carcano. Buonasera Roberto e una buona serata a tutti. Oggi parliamo con te di Mégane Coupé, Renault, marchio francese di primaria importanza, ovviamente conosciuta molto anche la Mégane, però adesso è tornata in grande stile la berlina, vorrei dire soprattutto questa coupé che abbiamo imparato a conoscere sui cartelloni di mezza Italia e dai rumors che io continuo a raccogliere spontaneamente, diffusamente, senza senso statistico ovviamente, per strada, sembra che piaccia molto questa linea sportiva della Mégane Coupé. Ci racconti che auto è, Alessandro? Guarda, proprio dal punto di vista del design ha sicuramente spiazzato un po' tutti, perché lo vedi subito di primo acchito che è un'auto un po' diversa, un po' fuori dal coro e senza compromessi. Tanto è vero che comunque da qualsiasi punto di vista la osservi, dal frontale con prese d'aria e fari un po' che fanno un po' tutt'uno, fino alla coda che era stremata e quasi da corsa, è sicuramente un'auto che non passa inosservata. Decisamente, questa è l'impressione proprio che dà, potete vederlo poi sul nostro sito, ma poi anche su quattroruote.it ci sono tante fotografie disponibili come su tutto il web. Ci sono punti forti e punti deboli che cercheremo, come sempre giornalisticamente parlando, di mettere in evidenza. Direi di iniziare alla grande con una scheda che va ad introdurci quelli che sono gli elementi base di questa vettura. Parliamo della Mégane Coupé 2000T 180 cavalli. Basta un'occhiata per capire che la nuova Mégane Coupé è diversa, senza compromessi. Da qualsiasi prospettiva la si guardi, emerge uno spunto interessante, dal frontale al padiglione, alla coda quasi da corsa. Un design che rivela la sua anima sportiva, fatta di prestazioni, ma anche e soprattutto di maneggevolezza e agilità. Il tutto condito da versatilità, qualità dei materiali e comfort da riferimento, a un prezzo base davvero interessante. Nome: Megane Coupé 2000T, 180 cavalli. Carrozzeria: coupé 3 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,29 m, larghezza 1,80 m. Motore: anteriore trasversale 4 cilindri turbo. Potenza: 180 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio meccanico a 6 marce. Prezzo: 22.721 euro. Dunque, Alessandro Carcano, queste erano le caratteristiche principali di un'auto che è lunga 4,29 m, quindi non è corta, non è una city car, non è però neanche un berlinone. Larga 1,80 m, c'è tanta versatilità a bordo di cui ci parlerai. Attenzione però, tre porte, quindi coupé secco con un 4 cilindri turbo. Che razza di auto è? Guarda, sicuramente ha questa caratteristica, questa anima sportiva, però è comunque un'auto che va benissimo nella guida di tutti i giorni. Diciamo che per sfruttare bene i suoi 180 cavalli siamo andati a provarla magari nei tornanti di montagna, dove anche senza bisogno di usare troppo il cambio, il suo 4 cilindri turbo si è dimostrato brillante fin dai bassi regimi. Il cambio soprattutto assiste bene il motore, perché è preciso e rapido negli innesti, ricordiamo che è appunto un manuale a 6 marce. E, per quanto riguarda i freni, Alessandro? Per quanto riguarda i freni, abbiamo fatto diverse prove in pista come da tradizione, e l'unica pecca l'ha dimostrata sull'asfalto ad aderenza differenziata, in particolare bagnato ghiaccio, però per il resto l'impianto si è dimostrato comunque ben calibrato e adeguato alle prestazioni e soprattutto insensibile allo sforzo prolungato, ecco. Decisamente, quindi questo è anche un ambito importante. Parliamo del prezzo. 22.721 euro ha stupito un po' anche voi? Sì, perché comunque per quello che offre, soprattutto per la qualità dei materiali interni e delle finiture, nonostante il design sia minimalista e comunque ricca, è un prezzo che va tranquillamente a far concorrenza ad altre auto dello stesso segmento, come può essere la Volkswagen Scirocco. Ecco, c'è da dire che, poi magari ne riparliamo bene dopo quando si parla di pregi e difetti, però sarebbe opportuno acquistare magari questo safety pack da 410 euro, perché quel kit di riparazione continua comunque a non piacerci e preferiamo la classica ruota di scorta. Ecco. Lo spieghiamo esattamente, quindi non c'è la ruota di scorta, che cosa c'è al suo posto? C'è questo kit che serve, diciamo, per fare qualche chilometro in più nel momento in cui si verificasse una foratura e raggiungere il primo posto possibile, poi per effettuare il cambio, farsela riparare e ripartire. Bene, così iniziamo a delineare questa Megane Coupé. Siamo pronti a parlare dei pregi e difetti, non prima però di aver dato i voti alle caratteristiche principali della Megane Coupé. Posto di guida: più basso che sulla berlina, ma con volante inclinato. Adattabile grazie alle regolazioni elettriche del sedile. 4 stelle e mezzo. Finiture: di buon livello per materiali, rivestimenti e particolari. Piace la pelle traforata dei sedili con cuciture a vista. 4 stelle e mezzo. Comfort: buono. Meccanica ben isolata. Si sentono solo un po' di fruscii. Sospensioni rumorose sullo sconnesso. 4 stelle. Su strada: auto sicura, adatta a un pubblico anche non troppo smaliziato. Controllo di stabilità preciso, non invasivo. 4 stelle. Consumi: in autostrada la Megane Coupé fa quasi 12 km al litro. In città non si va oltre i 9,6 km. Nella buona norma. 4 stelle. Questi erano i voti che abbiamo dato con la redazione di Quattro Ruote alla Renault Megane Coupé 2000 TCE 180 cavalli, la versione Lux. Alessandro Carcano, allora vediamo di mettere in luce i pregi principali, raccogliendo anche alcune delle cose che hai già detto, però anche i difetti di questa vettura. Allora, sicuramente il suo motore è veramente brillante, questi 180 cavalli sono disponibili fin dai bassi regimi e quando poi entra il turbo spinge bene fino oltre i 6.000 giri, quindi questo è sicuramente il primo pregio. Da un altro punto di vista c'è il cambio 6 marce veloce e preciso, quindi che ben assiste il motore e quindi rende la guida divertente. Il comfort, perché comunque lo spazio per il guidatore e quello per i passeggeri, anche se solo due, è buono, e il bagagliaio è comunque da riferimento. Inoltre le finiture, per concludere, sono di grande qualità, come abbiamo detto prima. Per quanto riguarda invece i difetti, partiamo appunto dal kit di riparazione, che preferiamo la ruota di scorta singola. Prima ho parlato del pack, singola costerebbe solo 80 euro come optional. Poi ci sono questi comandi sul tunnel che sono un po' arretrati, quindi rischiano di distrarre il conducente dalla guida. E se vogliamo altri due piccoli appunti, il comfort sullo sconnesso, perché le sospensioni sono un po' rigide e la visibilità posteriore da coupé è un po' limitata. Alessandro, se sei d'accordo, vorrei fare un'improvvisata ai nostri ascoltatori. Inseriamo un piccolo dato per la prima volta che vorrei che comparisse in tutte le nostre prove, quindi chiedo anche la tua complicità. Voi mi fornirete il peso della vettura, che in questo caso è di 1320 kg, e faremo una semplice operazione che consiglio di fare a tutti coloro che hanno una vettura, per capire anche l'anima sportiva della stessa, quando si tratta di un'auto sportiva, se no non ha molto senso, cioè il peso fratto i cavalli, il famoso rapporto peso-potenza, perché poi è inutile avere un'auto che pesa 2300 kg se ha solo 250 cavalli, è molto utile avere un'auto che pesa 1000 kg anche se ha solo 160-170 cavalli. Ecco, in questo caso i 1320 kg della Renault Coupé messi sui 180 cavalli significano 7,3 kg spinti da ogni cavallo, vuol dire che ogni cavallo di potenza di questa vettura deve portarsi avanti in questo rapporto che si chiama peso-potenza, 7,3 kg. Non è niente male, ovviamente non siamo di fronte a una super sportiva che arrivano a 6 a 5 kg su cavalli, ma nessuno se l'aspetta, però già siamo di fronte a una vettura che può dare delle soddisfazioni. Se tu dovessi scegliere il target preciso, Alessandro, di questa vettura, a chi la consiglieresti? Ma guarda, sicuramente è un'auto che piace ai giovani, come tutte le coupé un po' sportive, però anche a un adulto che magari non ha una famiglia da portare in giro, vista la sua versatilità e anche da auto può essere ottima come auto da tutti i giorni, direi che non è male, ecco. Quindi un target, se vogliamo, direi dai 30 ai 50 anni tranquillamente. Direi di parlare adesso di Renault, e con questo poi andiamo verso la chiusura della nostra trasmissione. Renault, un marchio che ha sofferto un po' in passato, ha poi rialzato la testa più volte, certo ha subito la crisi come tutti i grandi costruttori, però sta reagendo, sta tirando fuori dei modelli. La vecchia Megane è piaciuta un po' sì, un po' no, sicuramente meno della Clio, modello storico anche per noi italiani, e sicuramente più o meno come la Twingo, che se nella prima versione ha avuto grandissimo successo, nella seconda stenta un po' a decollare. Noi l'abbiamo anche provata in Portogallo, bellissima vettura, quella tutta pepata, però insomma non è che in giro se ne vedano tantissime. Ecco, questa Megane Coupé quanto piacerà secondo te agli italiani? Guarda, visto se il buongiorno si vede dal mattino, secondo me piacerà moltissimo. Già la berlina ha riscosso un discreto successo, per cui non c'è nulla che faccia pensare che questa coupé, che appunto abbiamo visto all'inizio, ha delle linee accattivanti, possa dispiacere in qualche modo. Certo, è un periodo di crisi, come abbiamo visto tante case sul mercato italiano non stanno andando bene, però penso che Renault comunque si sappia riprendere, e la Clio, bene o male, continua a vendere bene, ecco, se vogliamo parlare di un'altra categoria di macchine. Molto bene, Alessandro Carcano, grazie di cuore per la tua consulenza anche questa sera, ci sentiamo la settimana prossima per un'altra prova. Buona serata. Grazie a te e buona serata a tutti. Vi do un consiglio, quello di andare a visitare i nostri due siti, quattroruote.it e anche radio24.it. In entrambe potrete trovare delle voci, dei video, delle foto che vanno un po' a completare queste che sono prove che noi cerchiamo onestamente poi di trasmettere a voi che ascoltate, probabilmente seduti nell'abitacolo della vostra vettura o anche a casa, cercando di immaginare attraverso le voci, attraverso i rumori e i suoni di queste vetture quanto possa essere idonea o meno per voi. Lo facciamo su tutte le auto, su tutti i costruttori, ma mandateci i vostri consigli, perché proveremo volentieri l'auto che magari vorrete comprarvi, se si tratta di un modello recente evidentemente. Per farlo, oltre a radio24.it, vi ricordo anche la posta elettronica 4, scritto in numeri, mi raccomando, 4ruote@radio24.it. Un grazie particolare a Giacomo Spunta per essere rimasto con me, dalla regia ci ha fatto ascoltare tutto quanto avete sentito e che riascolterete sul sito. Roberto Rasia vi ha parlato, vi auguro un buon weekend e soprattutto una buona guida dedicata al piacere e alla sicurezza. Ciao!